pizza, com'è che sta uscendo? Un po' graffiante, sopra. Bianco sta uscendo, amore, sei pronto? Ma tanto lo è. No, stavo riuscendo a scaricare sotto l'onno, prova. Apro il microfono, e là, adesso la rotazione del capo della rotazione è bene, se no è un disastro. Dimmi una cosa, professore, sto usando un 507, come il segnale, quanto arriva? 9.10, va bene. Bene, già, ecco, aspetta un attimo, faccio un passaggio con un'altra radio, ma che mi dice la differenza. Sì, tu lo dici anche a me, tu, Roberto. Però la radio rimane più compressa, appena compressa, non sa, adesso si sette e mezzo. Ho visto anche il segnale, aspetta un attimo. Ah, ok, si sta 9.10, ma poco fa che si è abbassato. Questo è 140. 140? Cava gava. Che microfono, Vanni? Diciamo che è il classico 60. Invece 60 non si direbbero, sai, non è pompato. No, perché non è pompato? Posso montare, ma non è che sia questo rosso. Perché no? Ti vedo. Non è la solita radio pompata, là. No, non sono già visto. C'è il processore, c'è visto. Mettermi, quanti sono io? Aspetta, no? Aspetta, vado sotto, si è appena amplificato. No, adesso sta scendendo bene, non è troppo lontano. No, ciao, Zé, che l'ho appena accesa. Questa radio, sono le attive, sono un po' in schiamo. Sì, devo saldare. Le conosco, l'ho avuta anch'io, già lo so. Infatti la accendevo un po' prima di usarla e poi quando la usavo, da voi il segnale è andato all'impicco. Infatti... Quindi infatti poi aumentano la storia, che se non è lui aumenta, quindi è strano meglio. Ah, l'altra era il 2.57 con no. Il Comex Blue 3002, non è quello che fa più. Perché non mette in aria il 2.57 e quindi va bene, c'è da fare qualche lavoretto, ma lo va tutto. Non lo voglio tirare troppo su perché poi diciamo riportarlo e invece così meglio un po' di fatto in meno che... Ah, quello sì, quello è vero. E poi ha voglia di sforzare i finali dei clienti, ci riallotti di troppo. No, ma quella cosa sta a curare le clienti alla fine, ma la fina tutti. Meglio così e si riesce che il 70% di potenza, ma mai da bene. E infatti è interessante sentirsi una sera che ne manco a New York. È interessante che uno si senta bene. Infatti, poi per aumentare il segnale c'è 200, per aumentare l'ora c'è 200 e così via. Quindi da 100, 150 non cambierà più nessuno. Manco se ne accorgi. Ehi, è vero. Non c'è problema. Io per dire adesso sto uscendo con 4 watt e come mi ascolti il segnale? Ah, il segnale sì, ci passi, 5. No, vabbè, è tutto, come se ne fosse più o meno 6. Dove sei, Vali? Perché cazzo, cioè, a Sasso mi danno segnale unico. È strano arrivare così basso, anche se è un po' più basso. Allora te lo metti così, in piazza. Non lo so. Vabbè, più o meno in piazza l'entrata. Poi l'entrata di oggi. Guarda, se tu scendi da stadio, per esempio, scendi da stadio e quando entri a sotto, guarda sempre verso il mare, no? Guardando verso il mare. Scendi da stadio e ti metti di sotto, dici meno, c'è meno, tieni sulla testa a livello di, diciamo, di stessi. Quando stai scendendo, guarda verso l'alto, si vedono delle antenne che sono delle direttive grosse, là, giusto per capire. Ah, ecco, si è situato lì, dai. Ma è una zona libera o una zona un po' nascosta? Eh, diciamo che è passata lì e ho altre case molto più alte della mia, capito? La piazza lo serve poi, la piazza Santa Lucia. Seia. Noi siamo poi su scendi in piazza, qui per andare a Senna, io sono lì, tirando nella piazza, dove c'è il semaforo, là, sono sul semaforo da tempo. Da lì sarò 403-400 metri, quindi è un po' chiusa come sono. Sì, ho capito. E adesso come va? Guarda, 1, 2, 3, prova, guarda il segnale. Se va meglio. Sì, 6-7 adesso. E anche la radio è un po' più presente, naturale. Ma non c'è segnale, però c'è anche la radio. Scappa, ma la radio brutta è oppure accessibile? Va bene, perché? No, se è sato, non mi voglio sapere. Se è una radio sata. No, per il momento si è accettato. Va. No, ma interessa te che vada bene, che funzioni tutta la storia. Ok. Va. Aspetta che metto il 500 euro. Io l'ho avuto quel microfono. L'ho venduto 100 euro quel microfono. Eccolo qua, diciamo l'alimentazione che del microfono che mi dà per me. Dimmi una cosa, sai il picco massimo avere qualcosa a viva? Aspetta che mi sono messo gli occhiali, vai! Addirittura! Va da 9.10 a 9.13, non è che si sfrutti tanto. E infatti col picco massimo va a 150 watt, ma comunque va bene. Ok, sono con la terra, va. Niente. Allora, il CCC che no, non si perde. Ci mancano i tasti che non devo tenere un po', insomma, la benaliglia. Sì, perché se volete vado a 100, 150, ma comunque non è che migliori tanto, per dirti la differenza. Cosa ti stavo dicendo, Vannini? Però ci sono dei momenti che ti esce la porta, te mi scende il bip. Perché è come prima il CCC, capito? Sì, ma come prima il CCC lo devo fare una volta, lo vado di porta usi. Ma come ti ho detto, mi si molla il CCC, capito? Non c'è il suo tasto originale, hai capito? È un Inter che mette 100, però i tasti sono persi nel tempo, capito? Non so manco se ne avrevo, quindi devo infilarti una specie di vita dentro, capirci, però un po' di volte si molla. Ho capito, la Santa Raggia. No, la radio è bella, perché quando esci è bella la radio. Diciamo che l'ho aperto, l'ho fatto in modo che, capite, infatti quando, se tu vedi il fatto, non ti sembra in banda laterale, capito? Quindi dà la possibilità anche ai finali di non portante fissa, è un casino. Invece lui mi vedi che oscilla anche la portante, diciamo la potenza è una cosa migliore, quindi la radio è bene, insomma, fa molto meglio con le luci, capito? Perché il finale lavora meno, ma lavora meglio. Vabbè, no, interessante che vada bene, dai. Cosa te ne frega di riuscire con tanti watt quando la radio va bene così? Anche io sto scendo con pochi watt, li già di grido. Non disturbi, non succede nessun casino. Adesso è più anche finalizzato, aspetta, va. Stavo cercando un M300, dov'è che tu ne hai, non va? Eia. Ah, dici che non mi piace se di nuovo. Non aggiunta, dici qui. Sono fatto viso come il pignolo con le radio, non c'è una che ha un graffio, niente, sono tutte perfette. Ah, io devo bene, allora, ma lui, questo è spagnolo, ecco bene. Avanti nel bar, la città del cielo, no, a me non è che me ne frega, però adesso è fatto, quindi mi sento molla il CCC. Allora io questi li ho aggiustati perché ce li avevo, li avevo messi in carreggiata, in camera, li avevo messi, ma la sostenuta non è che... Ma era giusto per capire, ce li ho aggiustati da quello e li ho portati anche a salutare, tutto come una tutta, non è che... Ho microfoni, altre cose, è molto più complicato, quindi questo. Sì, vabbè, anche tu hai cominciato con la 27, quindi qualche ricordo nel cuore ti è rimasto. Vabbè, io ho iniziato la 27, sì, ma molto piccolino, cioè avevo 15 anni, neanche pure. E poi ho fatto una radio privata, capito? E poi per altre esigenze l'ho chiusa perché poi non me ne fregava più niente. Quando ho chiuso la radio, avevo 24 anni per fare una cosa del genere, più o meno, adesso non voglio dire, sono stato preso la patente a Cagliari, infatti conoscevo delle persone che venivano a fare i controlli, allora c'era un posto, si chiamava, infatti me l'aveva detto, mi ha detto andare a Raglia, sono chiuso, ma quando io sono chiuso, ma io che ho fatto, che avevano una fortuna per questo, però sai com'è, la testa è la quella che era. Come si chiamava questa radio? Vediamocelo sì. Radio Studio si chiama, ma già l'ha sentita per forza, sicuramente, anche se non l'ha sentita era un bel capito, cioè era molto conosciuto. Si chiamava Radio Studio, è stato tipo Stereo, perché poi ce n'era un'altra. E c'era Radio Nova? Sì, c'era anche Radio Nova, il Sinti, e ce n'era. È rimasta Radio Nova, ma dopo, ormai fare radio è... ne vale più la pena, non... cioè diciamo qui non serve a niente, la fai non si risvegli o niente, beh tu vedi che è stato il successo. In realtà sai, ci sono molte radio che sono rimaste, Radio Antenna 2000, cosa ti posso dire, Radio Venere, ce ne sono rimaste tante sono scomparse. Ma infatti se non sei appoggiato a me, dottore, cioè ti proprio ti fai le spese e niente, adesso bisogna che ci siano le cose. Ma senti avanti? Non ti distacca, visto che ti immagino. No. Paga. Avanti. Aspetta che entra anche Luca. Ciao Luca. Beh, ma da solo stai parlando? No, con Vannino di Sorso. Ah, ok, da. Vabbè, da. Però tra un po' devo uscire. No, io no, non lo so veramente, adesso vediamo, dipende cosa c'è in giro, ohia, sono un po' stanco oggi, sono un po' stanco, mi sono con il caffè sotto riposando. Ciao, comunque così, è il tempo però. È il tempo, perché non arrivo lì da te, non mi va il treno. Vanni, tu con che antenna stai uscendo? Adesso è la Mantova 1, capito? La Mantova 1 organizzo, boh, forse la... sì, mi pare che è la Mantova 1. Non lo senti con la Mantova 1, dove c'è? A casa di Mario? Mi sbigliare, ma non lo sento, c'è un po' di vento qua. Ma a casa tua sì? No, la Marina. Ecco perché, cazzo non mi arrivi 9:30? Tu sei uno dei più forti di tutti, quasi, sì, guarda qua l'attore, solo tu sei la stessa 9:30. Certo. E Vanni non mi sente 9, vanno, mi sente Santiago 5 a Sorso, tu? Ma c'è parte a lui, hai compreso, ma sarà sempre anche migliore, vedi che lui fa cosa migliore. Ma io l'antenna già ce l'ho buona. Sì, ma non era recinto a te. Strano che io lo sento comunque, lo sento 2-3, posso dire, là, lo sento sul fondo, la radio comunque è buono perché l'ascolto bene. Sembra strano che non mi ascolti lui, hai capito? Ma lui sta uscendo con lo stilo di una mantova, eh? Pensa un po' come se lo ascolti da sotto allora, mi sai che dice io. Luca, lui ti ascolta! Sei bussufano, sento basso già. Anche Antonio mi arriva a basso, Antonio Riserva che è al monte, Santiago 1 mi arriva. Ripeto, tu sei uno dei più forti, sei sul 3 del più 30. Poi vabbè, perché la tenda ci sono da fare. Cioè, sul. Tra il più e il 3, dai, in mezzo. Vai, vabbè. momento, no. Adesso non vediamo, dobbiamo andare a trovare degli amici. Infatti devo mandare un messaggio, quelli che sono spagnolo. Quelli che sono spagnoli? Che suonano la musica in spagnolo, tipo Gypsy King, me. Sono in, aspetta, piazza, ma, come si chiama lì? Piazza? Piazza Fiume. Perché possiamo fare lo spettacolo là per noi? Certo, adesso mando un messaggio, vediamo un po' se suonano oggi, boh, perché la giornata è un po' così. Il vento c'è, un po' di vento. Cava cava. Vabbè. Ma cosa c'è? Locale lì? Sì, c'è un locale sì. Se di pagare un bicchiere di birra 5 euro. Ma io andavo in quella pizzeria che c'è in angolo, qualche volta sono andato, però non c'ho presente dove sia questo locale, se non è un locale nuovo. Ma tu basta andare in piazza Fiume già, qualche locale c'è, qualcuno vende birra lì, c'è, per forza, sono lì che suonano, adesso gli mando un messaggio, aspetta, riprendi. Cazzo, riprendi, vanni, tu non ci vai a vedere Los Amigos. Adesso mi devi prestare, ti va. Pure alla Feroce, sì, pensa, qui alla Feroce dovrei andare anche bene. Vabbè, va, fatto lui. No, io poi faccio un bella doccia, tanto ci andiamo a mangiare fuori, perché poi sono qui per la cosa mia. No, ma è brutto tempo pure, quindi lasciamo perdere. Vabbè, è a passare un attimo, ci interessa a te fare qualcosa. Quando c'è brutto tempo l'unica cosa è chiuderti in un locale, magari dove facciamo musica e stai lì a mangiarti qualcosa e via. Allora, adesso fai all'aperto a sentirti male. All'aperto fa, c'è un po' di vento. Poi, gli assembramenti non sono ammessi. Bisogna che stia... Che tu oggi, adesso lo fai... Stavo facendo la fila a casa di salumeria, questo supermercato l'ha commessa la dittudosa perché mi sono avvicinato troppo al tipo, ma non ci ho pensato la verità e lo fai automaticamente. E poi sono tornato indietro e ho detto cos'è un altro. E oggi la commessa è nervosetta. vabbè, beh, metti che mi sacco va. Vado a fare altro. Ciao, è tanto, dai, avanti, Luca. Luca. Avanti, che c'è? Io, qualcosa ti serve. Sì, tutto, mi serve Sancho. Lo lascialo stare, sta dormendo. Già. Beh, tu mi arrivati e lo baciamo a matti, poi ci andavamo a farci un giro di notte, poi lo ho chiamato perché tu magari c'hai un fatto. No, sto occupato, è oggi sono occupato. Niente, Pompone mi ha regalato la mascherina e il contadino per Comex 4000, io ho tolto con due ritipulla che fa già il tipo, che prende un'unca, aveva quasi le tre ritipulle, ma non pulire tutto la data. Ovvio, e te l'hai cambiato? Sì, sì, da in check, è tutto, delle preghiere, tutto coperto. E Zugat? Io mi volevo prendere tutta la stazione base che c'ha coso, ma non me le vuole dare. Senti, Manuele, ma quello come lo ti aiutare a fare? Cosa? Come quello che lo ti aiutare a fare? Quella lì mi piace. Ma non me ne date, ho detto che no, non ne do. Mi ha offerto anche 150 euro, non è appunto. Ma so pochi canali. Vabbè, lo so. C'ha 40 canali, mi fa. Ehi, c'ha che le CCP lui. Dove? Quei 40 canali. Ah, c'è CCP, FM. E pure FM, mi sembra che completo, mi sembra roba di poco. Ebbene, l'hai sentito Fabio? No, ieri te l'ho sentito la verità. Devo trovarci anche io già a chiamarlo per fare il microfono da Emanuele, però Emanuele senza microfono lui manca usare l'altro apparato e già sono come te. Non l'ho sentito. Nulla zero. E dove vuole cantarmi un finale di ricezione e poi mi fa l'attacco praticamente della limitazione 12,8 e certa, cioè che posso mettere un abitatore, ma quello che c'è all'interno posso fare, non ce la fa, e scada passo. Quanto ti costa questa cosa? No, molto male, se io sono successo, non faccio perdere, sono meno utile di una presenza. No, voglio fare questa prova, però non pensate che non faccio niente. E l'ha già contattato quello che era il finale? Ma sta arrivando dove ha pensato lui, però bisogna vedere, capito. C'era una resistenza sbagliata e è andata anche male, della posizione errata. Fatti un conto, sarà più caldo. Esatto. No, lo so, infatti Antonino l'ha detto, io l'ho avuto e non è stato qui. E beh. Lo so, che è difficile, ci vogliono proprio le attrezzature adatte per capire qualcosa. Se non hai oscilloscopi, tutte queste cose qua, non è capibile. Certo. Io sono andato stamattina a fare un po' di sperazione ad un po' di carica, che ho visto lo zimino, ho pensato a te, ho detto cazzo lo zimino. Comunque il venerdì e il mercoledì c'è la praticamente. Ma noi facciamo domande, ma io oggi è casinato, sono dovuto andare dallo soffitto. E poi infatti fuori, ok, perché poi con il studio che ha chiuso l'isolanza viene riportato con l'altro progetto. Per ripidarli questo 2-3 tavole che fa lui. E poi mi sono attaccato, ci qua fare una cazzata, e poi ce la facciamo lui e buonanotte. Mi ha fatto un messaggio, ma quando mi dici? Mamma lui! Eia! Allora, che cosa ci ha messo? Una tavola in piedi, l'altra in piedi, l'altra appoggia per sopra, così. Un qualche chiodino, cosa detto, ma ci passa tutti i ricordi. Ci vuole ancorare in acciaio come ce l'ho io, se ne è una cosa costante per la resistenza. Sì, vabbè, magari la faccio anche da tutti i suoi. Anche se a me queste cose non è che mi piacciono tanto, perché se si imparano, ti va a fare chi ci fa. No, ma lui prende niente sotto, non penso così. E ci ho messo dei caracchi di sotto, ci ho messo. Però è un casino, non si fa il pubblico. E infatti se c'è l'altro è troppo pesante, non è la bella. No, l'altro non è pesante il galaxy. Vabbè, ma uno sopra l'altro, poi pesano di più. No, io non ce l'avevo uno sopra l'altro, non è pesante. Io ce l'ho, i piani che ho fatto nel mobile, ma io ho il mobile che ogni ripiano sono per 2 centimetri, è bello. No, io uno sopra l'altro ho il manimo con le... con 3009. Sono attaccati, sono perfetti, sono uguali, tali uguali come dicevissimo. Sì, ma di quando ci metti anche un veicolare, vabbè, io sul Galaxy ho messo per esempio questi alimentatori che ho messo ai cinesi, che sono solamente leggini, ho già, che non pensare nulla. Ciao ragazzi, io un alimentatore ne ho uno da 35 ampere. Ma è con quelli di cinesi? Ah, ho già capito i cinesi. Io ce li ho tutti con gli strumenti, tutti perfetti. Quello mi sarebbe piaciuto, lo vedi? Ne ho uno, due, tre alimentatori. Tu sei 35? No. Ne ho uno da 50. Ne ho uno da 50. Uno mi pare da 40, da 45. E uno da 35. A me mi è ancora più quello da 35, va bene. No, ma non le do, non le do. Sono nella stazione, quindi... L'ultimo che ho preso è questo qua. Questo da 35. È molto carino, dai, c'è lo strumento, tutto qua. Dove l'hai preso? Da Fusaro? Ma con da Fusaro non è vero. Io li ho presi da internet, da negozi. Solo che adesso non fanno più niente il contrassegno e non sto più comprando nulla per quello. Ma è un bene, così almeno mi spende su. Prima come pagavo il contrassegno, paravo per il rompo. Come proprio, questo? Vabbè, con Poste Pino mi piace. No, PayPal è la più sicura, Poste Pino, ma PayPal è sicura. Ah, che PayPal è altra cosa. Se invece fai un bonifico, c'è ancora al 1000 per 1000 più sicuro, perché c'hai tutti i dati ed è molto più rintracciabile. Non sono tutti che fanno il bonifico, tu. Per il più, con l'Icca glielo fanno. me l'ha voluto aiuto. Sì, ma non sono tutti, c'è gente che non lo fa il bonifico. Vabbè, quello che c'è conto in banca lo fa, uno che non dà, non dà. No, no, c'è proprio gente che per scelta non lo fa, non perché non c'è, anche se ci sono negozi, non ce l'hanno le conto in banca i negozi. I negozi fanno solo carte di credito, PayPal, SuPay e boom. Con carta di credito lo farei io, assolutamente, a me piace andare. Ah, proprio se Tonino ci vicino, ne ha. No, Tonino ci ha diventato lì da 2 ampere, da quelli di bici, quelli che si usavano una volta. Io ne ho 1 ampere senza coperchio, che funziona, da 2 ampere, se lo vuoi te lo regalo. Ma come ne posso? Ma che rosso anda? Il minimo che ci vuole qua è solo 10 ampere, minimo. Ma per che cosa? Per quale apparecchio? Connex. Connex potrebbe andare questo, l'ultimo che io ho comprato. Potrebbe andare bene. Se te l'ho detto io, eh? E tu quanto l'avevi pagato già quello lì, 135? 135 mi pare, una cosa del genere. Comunque Fusaro, se tu glielo ordini, non si può far arrivare. Poi Fusaro non è entrato alimentatori. Prima trattava quelli Italia elettronica, non so che cosa, erano bei buoni. Io l'avevo dato a Franco uno, e praticava Franco California, e praticamente ce l'ha ancora, c'avevano lo strumento, erano bianchi, e infatti l'avevo subito tolto il copper, che l'avevo fatto nero, perché mi piaceva di più. E niente, e poi praticamente avevano 10 ampere, ma 10 te li davano tutti. C'avevano il trasformatore con la rete dietro, col dissipatore. A te che ti chiamo te? Hola. Attenzione, canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, cambia! Giovanni. Uè, mi stavo provando un apparecchio, ora, perché macchina non mi funziona? Te l'immagini? Non capisco perché. Ciao, e come mai non funziona? Allora, lo attacco in macchina, premi la portante, non si muove manco l'ago. Non si sente QRM, niente, lo porto a casa e tutto a posto. E quindi l'antenna? L'alimentazione è buona? Penso di sì, non me lo fa quel rumore che faceva con l'altro, perché questo va con meno watt, capito? E l'antenna è a posto, l'hai controllata? No, non l'ho controllata, però ho modulato con un altro apparecchio l'altro giorno, quindi funziona. Che strano, se tutto è a posto dovrebbe funzionare. Questo quando pompa assorbe, però, questo non è quello da combattimento. Ciao caro, uno in vendita questo, lo sto vendendo. Come mai? Sì, perché tanto in macchina non ne posso mettere, cosa vengo a fare? Io questo lo usavo in macchina per viaggiare. Quante cose non si possono mettere, no? Abbiamo sempre usate, dai. No, non lo posso mettere perché non funziona, non capisco cosa sia. Poi ci vuole un impianto fatto come si deve, come Dio comanda. No, non si muove lo smitter, tu schiacci la portante e non si muove, manco lo smitter. Qua a casa è tutto diverso. Lo attacchi, muove lo smitter, parli tranquillamente, vedi. La ricezione funziona però, quando lo lasci stand-by. Si sente manco QRM, si accende e boom. Misteri, boom. Cosa stai usando? Magnetica, cosa? Che antenna c'hai? Sì, magnetica sicuramente, la macchina nuova. È una magnetica da combattimento, però che andava molto bene. Io andavo a Platamona, tornavo, così mi sentivano tutti, anche a Sassa. Quindi va bene come antenna. Non capisco cosa sia, forse non si adegua uno con l'altro, non lo so, non so cosa possa essere. No, se funziona con l'altro apparecchio deve funzionare anche quello, non è che il funzionamento è sempre quello. L'altro apparecchio l'avevo attaccato alla batteria, capito? Attacca anche questa alla batteria. Ho aperto il cofano, così l'ho attaccato al volante, no, non ne ho fatto attacco. Non ne voglio buccare di nulla. Ecco, Comunque, se la macchina nuova dovrebbe essere abbastanza potente la presa della cinesigari. Dove hai attaccato la cinesigari? Già. Ormai sono abbastanza grosse, boh. Se no, vabbè, passare un cavo non è che non deve sfasciare la macchina. Sicuramente lo trovi un buco per farlo passare già fatto. Adesso vediamo, cambia. Aspetta, non sento molto performante. Cambia. Eccola qua. Adesso chiudo tutto, Così è la radio normale, bene va. Ma stavo iniziando a fischiare le scale, qui abbassano leggermente, un pelino. Guarda così, va bene, cambio. Adesso non si sente nessun innesco, perfetto. Via. Attenzione Franco, se ascolti il doppio room, cambia. Riesce bene, comunque dai, riesce bene. Ho sentito Giulio, lo fa che ha fatto chiamata, l'ho richiamato, era già sparito. Giulio, ci sei? Se sente l'ecco scappa. Allergico. Allergico all'ecco. Io prima ce l'avevo una della ZG. E se non sbaglio aumentavo anche, era anche amplificato, quindi aumentavo anche la radio. Allora, sì, c'è M93, M95, esistono ancora quelli della ZG. No, era ZG, però la sigla non me la ricordo. Però ci va bene, ma ne mettevo un pelino proprio appena di più che altro era un reverbero, Però mi ricordo la radio era allucinante, era ancora più forte di questa che penso. Sì, questa non è una cattiva radio, però la spingeva ancora di più. E questa qua a lontananza spinge un bel, senti solo la radio, capito? Senti solo la radio, non è al massimo, aspetta, guarda, questa qui adesso è al massimo, cambia, guarda, sono troppo vicino, adesso per quello che fischia, guarda adesso, cambia. Non c'è eco adesso. Vabbè dai, lo stacchiamo, è 37 che vada bene, mi stavo impressionato, non è che mi è partito qualche cosa, invece no. No, è perfetto, esce benissimo. Cappa, non so che dirti, guarda, sono sempre inghippi strani, non vorrei comprare antenna, filo, tutto quanto, da bui magari non mi funziona. E qualche spezzone magari in corto, può essere, cioè, stazionale le guardate, Io non ne ho controllato, ma con la tua parecchio uscivo Santiago 8, arrivavo a Claudio. Utilizzando gli stessi spezzoni senza cambiare niente. Allora, senza cambiare nulla, questo qui, non lo so cosa sia successo, Molto strano, molto strano. Io qualche base magnetica ce l'ho, se la vuoi provare, quelle da lo stile in acciaio. Quelli sono in cortocircuitate, dai. Che ne hai preso tu, Bufra? Come? Che tipo di antenna hai preso? No, sono tutti... Qualcuno me l'hanno regalata e basta. Tutti rimasugli, roba vecchia, però ancora funzionano. Vabbè, se sono trattate bene funzionano. Io la Turbo 2001 la lucidavo col CRC. Ogni volta che pulivo la macchina la toglievo e la pulivo tutta quanta bene. E andava sempre bene, stazionare uno e poco si muoveva, nemmeno uno in uno. Una l'ho accorciata parecchio perché per accordarla, quindi una sarà un po' corta, lo stile l'ho dovuto tagliare con la tenaglia, la parte sottile. Non vogliono tagliate a piccoli tempi perché sennò poi ti si rovinano, poi magari e alzano troppo e non riesci più a abbassare le stazionali, capito il problema qual è? No, l'avevo tarata, è che adesso l'ho messa su un'altra macchina e non va più bene, capito? Ogni macchina ha le sue misure, l'avevo messa dietro nel portellone dove c'era la rotta di scorta, questa più o meno mi sa uguale, però risponde diversamente, ci sono altre componenti sicuramente che la rendono diversa nella taratura, però ne ho un'altra invece che è intera, lunga, quella è nera, è verniciata di nero, invece l'altra è proprio bianca color acciaio, da. È verniciata, allora è per quello, magari la vernice gli dà problemi. No, è nata così, però quella lì è nata nera, questa invece è nata bianca. Non so, sarà contro l'autismo, sarà una bianca o una nera. Non era la sto cercando, proprio nera. Sì, la lunga è nera, è già collegata. Gli mancava la capsula, mi sembra, di quando me l'avevo regalata, la capsula di il cortocircuito io l'ho fatta costruire al tornio, tirato l'altra, più o meno simile, eh. Dovrebbe andare bene, buh. Va bene, anda bene. Ma che tu, quanto è lunga quella che stai usando, che hai provato, eh? Già, non ho capito. Come misura, com'è quella che hai usato? O è piccola e quelle corte, hai presente quelle del Maxon, quelle che si alzano, che sono telescopiche? No, no, questa è fissa, sarà uno, non so se è 1,60, 1,70, boh. Ci sono un beato. Costano pure un sacco di soldi, 60 euro, 70 euro la GBC costa. Ma già costano, Allora, ho fatto una cortesia a una persona e c'è Valerio Masugli e me l'ha regalata, completa di base magnetica e tutto col cavo. Me l'avevano rubata sotto casa così, mi hanno tagliato il cavo e se l'ho rubato l'antenna con la base magnetica. Ma no, questa è intera. Poi c'è la mia vecchia base magnetica, quella è enorme, è molto grande come dimensioni. Quella una volta che si attacca guarda, ce la fai più attaccarla. Così graffi la capotina della macchina, è quello che io temo, lascia Billy, non i buon gruppo in macchina. Gli avevo fatto una specie di pellicola in gomma tipo camera d'aria, sottile, non so se avrebbe fatto bene o male, per non graffiarmi la macchina. Sennò prima era in alluminio, perché comunque più è attaccata alla mia è meglio, è più rende. E poi addirittura mi hanno detto che bisogna conservarle attaccate. Le grandi, che ci sta la Turbo 2001, la Turbo Mini, è fatta apposta per quello della LEM, dai, è quella della LEM, che c'è solo la camera d'aria e poi c'è la calamita, subito dopo la camera d'aria che c'è, capito? Sì, no, questa era in alluminio, proprio sotto c'era uno strato di alluminio da, non so, da meno di mezzo millimetro, dai. Però sulla macchina bianca mi ricordo come la piazzavo, lasciava le righe scure, non graffiava, però il segno rimaneva, poi le toglievo con un po' di pasta abrasiva. E allora gli avevo messo la gomma, soltanto che una volta mi si è staccata, ma stavo camminando, me ne sono dimenticato. Mi si è staccata, meno male, sì, aveva appena mancato lo sportello, ma proprio impercettibile. Meno male non mi ha staccato il vetro. Una volta a me, vicino a Marini, stavo camminando, mi ero dimenticato che avevo la base magnetica, e sento mi sono fermato. Ma cosa è successo? Guardato, mi sembrava di aver colpito qualcuno, non è che è giubilato cacchino in moto. Mi sono fermato di colpo, e vedo la magnetica nel vetro di dietro. Meno male che non mi ha rotto il vetro, mi ha graffiato un po' la macchina, ma il vetro non me l'ha rotto. La stessa cosa è capitata a me, anche la mia è rimasta a penzoloni, perché dallo sportello, diciamo, a centro capota ci sono 50-60 cm di cavo, quindi è rimasta a penzoloni, anche la mia. Pensavo che c'era la frusta nera, che era anche pesante come antenna. E io invece ero sul rettilineo di Olmedo, la strada vecchia, no? Proprio dove sono tutti gli eucaliptus, che ti porta fino all'ingresso di Olmedo, va, quel rettilineo lì. Vabbè, fra, scendo un attimino che mi sono fatto una dimenticanza grossa in macchina. Il cane? No, no, sto scherzando. Il borsello, sto andando a prendere prima che mi rubura. Dai, ci vediamo, anzi ci sentiamo. Se non ci sentiamo, un abbraccio e buona serata. Ciao. No, sto salendo su. Io tra un po' devo uscire però, vedi un po', dai, se ci sei, se no, paziente. Anzi, se ci sono io. Ok, apri. Siamo su F10, break, Attenzione su 10, c'è un suo, break. Che va? Vabbè, Manuel, deciso ti sì. Ho detto deciso ti sì. Niente, là. Non hai voluto capire tu. Ho detto deciso di sì. vabbè dai, quando me ne pigli un altro già zitti. L'hai visto? Aspetta che mi stanno chiamando. Ehi, allora l'hai visto? Quello lì pompa forte, lo sto vendendo se ti interessa. Quello pompa forte. Se non è che facciamo scambio e poi c'è qualcosa. Non so. E vabbè. Scusa un attimo il telefono, speriamo che questa volta riesca a finire. Ah, e ci con meno. Right away. Il segnale è molto molto basso anche in radio proprio, quasi quasi ti copre il QRM, e non c'è un accordatore d'antenna. Ecco, cerca di aumentare dopo qualcosa perché sia un bel basso, ragazzi. Roger, ecco, Claudio, speriamo che riesci a risolvere, ma più presto, così meno ti sentiamo meglio, come le altre volte, le mani forte. Santiago 5, radio è proprio, diciamo, dai, non di più. Ma qualche cosa sotto lo puoi mettere per aumentare il segnale? Portalo almeno 1-3. Comunque, stazionare a 0 non esiste. Sempre 1-1, 1-2, 1-3, capito? E via dicendo. Non esiste a zero. A proposito, se mi controllo via stazionale, aspetta. Allora. Così. Vediamo se io stacco. Beh, di meno. No, aumenta poco le stazionali. Da 1-2 ve lo porta 1-4 e boh, aumentando. Breco. Per certo, se no tu puoi ti bruci finali, buon anno Fasicchio. Ok, c'è stato un break, compagnia mia, Tonino Kawasaki, compagnia di Claudio Chiudolo Ginto. Avanti break. Sì, ciao, buonasera a tutti, Roberto da questa parte. Ciao Tonino, ciao Claudio. Ho visto, hai avuto dei cambiamenti poco fa, da 8 a più di 9 di colpo. Deve essere toccato qualcosa quando stavi parlando. Eri 7,5, 8, poi di colpo sei andato oltre 9. Non, ma non è che c'è qualche cavo che non sta facendo ben contatto? No, il segnale è molto più basso. Tu avevi 9 più 5 senza essere attaccato. Adesso sei poco meno di 8, quasi 8, poi più che arrivi più di 8, però non va bene. Io sono sicuro che tu c'hai problemi sul cavo, perché tu anche se accordi, puoi accordare anche un pezzo di fil di ferro teoricamente, però l'antenna non sta irradiando, c'è qualche problema, però come è toccato qualcosa, forse boh, come è mosso, sei salito di colpo a 9, no, sempre lì, quasi 8, sì. Radio tendente al 5, dai, ti porti appena di QRM sotto, però quasi 5, dai. Però non sei tu, diciamo, è bella la radio, però non sei tu. Cosa volevo dire? Avanti tu. Ok, sì, in effetti è molto basso, a me arriva a 5 addirittura. Infatti era un po' incomprensibile, perché insomma che sì. Tra l'altro Claudio più dell'Egitto, il cavolo così basso è successo. Andare. Aspetta che mi prendo un attimo la bottiglietta di acqua alla cucina, mi prendi Romè. Anche tu Tony hai avuto dei cambi, eri quasi 9 più 30 un attimo, adesso sei 9,10 abbondanza. Così dicevi, era sul 9,30. 9,25 sì, così attaccato. Non mi piace usarlo, ho capito. Ci sentiamo, dai, va bene così. Questo va bene d'inverno, che metto la mano sopra e mi scaldo. No, va benissimo, stai arrivando a bomboletta qua. Niente da dire. Infatti molte volte dico, ma che bisogno c'è di sparare tanto quando ci ascoltiamo tutti bene? Posso capire se uno viene da lontano, riesce a tirarlo fuori con le pinze, ma arrivate tutti bene. Ok, riprova un pochettino, ma tu sei sicuro? Una domanda, prova a mettere direttamente l'antenna un secondo e prova a mandare portante e a parlare Claudio, diretta, l'antenna diretta senza accordatore, e metti direttamente e vediamo se può essere dall'accordatore. C'è qualche donato su questo canale? Attenzione, canale 10, chi vuole entrare? Sono tornato. Ehi, a quanto ne state dando di batteria e Tony? Ma questo penso che più di 80 vale da. E comunque sale parecchio, cioè da 9,10 abbondante sei salito a 9,20 abbondante, 10 punti guadagni. Il minuccio sono 31, Ah, ma poi non hai riduzioni di radio, la radio è uguale, non cambia niente. Beh, quello è l'importante, vedi? Buono. No, perché molte volte quando attaccano, fanno le cose, ci sono rientri, hai avuto un giusto abbinamento. Claudio, così che come mi ricevi, così sono liscio. Aspetta che sta staccando l'antenna e la sta mettendo diretta senza l'accordatore, che magari può avere problemi anche l'accordatore, non è la prima volta che è successo. Capito. Niente, se guarda la televisione non c'è niente, vabbè. Sarà finito, ma sta accendendo il baracchino proprio. No, io c'ho sottofondo la partita, 1-1 l'Inter, e vabbè, eravamo finiti a mangiare la pizza. Ho preso la pizza, l'ho portata a casa e me la stavo guardando di lì in attesa. E stava vincendo 1-0 l'Inter. Adesso sono rientrato perché è finito il primo tempo e hai fatto rubare il Napoli, 1-1. No, io non sono tifoso per il pallone. Infatti quando c'è il campionato mi piace tutto un altro genere. Vabbè, diciamo, ognuno c'ha i suoi gusti. In Italia però il calcio è una religione, il 90% delle persone maschi, non femmine, perché femmine che guardano le partite del calcio ce n'è una su un milione. Maschi il 90% già lo seguono il calcio. Io non sono sfegattato, nel senso non tifo nessuno in particolare, simpatizzo un po' per il Milan, ma non sono di quelli che non ne dorme la notte se perde. Il Milan, vabbè, era un signor Milan quando c'erano i tre famosi giocatori. Rijkaard, Gullit, aspetta l'altro che era, la faccina, Rijkaard, Gullit, ma basta, ecco, era un signor Milan. Non lo so perché Maldini, Barisi e tutta quella gente che c'era, dimenticandocene se. Ma quelli erano proprio i tre più forti, erano, ragazzi. Era un campione proprio. Che sputo, ne ha indietro del tempo ai livelli del Cagliari, Gigi Riva. Anche Cagliari ha fatto la sua storia negli anni 70, ai tempi di Gigi Riva, si ha vinto anche lo scudetto nel 1970. Prima ci bastavano pochi soldi per fare una bella squadra, adesso bisogna avere un bel dirina. Moratti che ne aveva tanti e Berlusconi che ne aveva tanti hanno mollato perché non ce la facevano più a seguire le squadre internazionali inglesi o spagnoli. E io mi ricordo nel 70 del motorino che faceva la raccolta quando c'era il Cagliari Serie A che vinceva sempre le monetine che si mettevano nel raccoglitore. Te lo ricordi tu? Sì, la Shell ti dava una specie di coso vellutato e c'erano tutte le medagliette di tutti i giocatori, quindi quando facevi un pieno o qualcosa del genere te le dava. Io ero piccolino, avevo 7 anni perché l'ha vinto negli anni 70 il Cagliari, forse non li avevo ancora fatti quando li ha vinti. Ce le avevo conservate, me ne regalavano tante, poi non so che fine abbiano fatto. C'ho il padre di mio cognato, lui ce le ha tutte belle, finito. E io sono più grande di te, vabbè. Quindi abbiamo anche il motorino. Non lo so, quando si faceva la miscela, te lo ricordi che c'era il cilindro, mettevi il coso, poi al 2 giravi e tiravi una specie di lei. Tiravo la pompata, al 2, o al 3, quando lo volevi. Che si miscelava automaticamente. Poi ha fatto il motorino ovviamente, la benzina verde e via dicendo. A molti c'erano il miscelatore, c'erano già, si state a vedere i Vespuni col miscelatore, eccetera, eccetera. Ok, vediamo se Claudio Di Muro se c'è ancora. Avanti Claudio. Non ce l'ha fatta. Nulla, Claudio non ha risposto, riprendi tutto un'idea. Ma oggi è stata una giornata così, diciamo, dai. Cazzo, poi mi sono correccato, pomeriggio, ti dirò che mi sono stato tardi. Devo andare a mio figliuccio, poi visto che era tardi, sono andato a prendere la mia compagna. E quindi, devo fare il ruota, Manuele l'ho chiamato e non mi rifugio. Deve essere ufficio. Ma come mai esce così basso? Eppure dalla Terroccia, cacchio, dove dice che non mi ascoltava, mai sentito una persona che a stasera è la prima volta in vita mia che non mi ascolta. Mi sembra strano. Allora no, aspetta, lui c'ha l'antennino riportato tutto verso la Budimuti, ma piccolo me, è un mostino solo, un radiale. Sì, ma non è mai successo, nessuno a me mi ha detto che non mi ha mai ascoltato, cioè per dire io non sento a loro è successo, però che a me non mi abbiano mai ascoltato, cioè che io riesco a sentire però che loro non ascoltino a me è il colmo. Infatti fai che ti ascolta 2, 3 massimo, cioè ma infatti devo ascoltare, e lui invece nulla, zero, non lo so. Magari c'è qualche problemino pure all'apparato, perché io a lui lo tiravo fuori.